1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Oggi parleremo di che cosa? Un po' di quello che succede all'interno del Movimento 5 Stelle. Avremo il senatore Nicola Morra, uno di quelli ortodossi che è rimasto, che rimane assolutamente nel Movimento 5 Stelle. Immagino abbia votato, glielo chiederemo, per l'espulsione dei quattro, che poi sono più di quattro perché altri li seguiranno, probabilmente una decina, hanno detto non ce la facciamo più a stare nel Movimento 5 Stelle. Parleremo un po' di questo, parleremo anche, ieri l'abbiamo raccontata dal Fatto Quotidiano, oggi ne parla anche il giornale, di quello che succede nel Trentino Alto Adige, dove per una legge che spiegheremo, una conversione di una norma, si sono presi tipo 90 milioni di euro di vitalizi distribuiti tra 130 consiglieri, una roba incredibile, di quelle che sicuramente vi farà mettere il buon umore, cari italiani. Ora andiamo a sfogliare i giornali. In questo giovedì 27 febbraio i titoli, il Sole 24 Ore apre sui mercati, corsa ai bot, tassi in asta allo 0,45%, questo è il titolo di prima pagina, mentre tutti gli altri quotidiani aprono sulla questione Grillo, il movimento di Grillo nel caos, così il Corriere della Sera. Per Repubblica, cacciati i dissidenti, Movimento 5 Stelle nel caos. La Stampa, lo strappo dei grillini. Il Fatto Quotidiano, i 5 Stelle perdono i pezzi, ora Renzi ha 3 maggioranze. Il Secolo XIX, Grillo perde 15 parlamentari. Il Giornale, dai Grillo, sfascia i tuoi. Libero, gli utili idioti di Renzi, scissione tra i 5 Stelle. L'Unità, Grillo fa esplodere le stelle. Il Manifesto, la retata, e c'è una foto di Grillo. Come vedete, quasi tutti i quotidiani aprono su questo. Il Messaggero, quotidiano molto diffuso a Roma, apre comprensibilmente su Roma, sull'orlo del dissesto. Mentre l'apertura di Avvenire è una vicenda di una sentenza del Tribunale di Milano che ha dato ragione a due coniugi che avevano comprato, tra virgolette, un bambino in Ucraina girando la legge 40. Il titolo di apertura di Avvenire è Madri in affitto, il diritto rovesciato. Io voglio partire però il gran giorno del comandante. Salga a bordo. Bip. Il comandante Schettino, che è al giglio per tornare a bordo, tutti i giornali lo seguono, tutti i giornali ne raccontano un po' qualche frase estrapolata qua e là. Marco Imarisio sul Corriere della Sera, pagina 23, Schettino al giglio per tornare a bordo. Non sono un debole, voglio la verità. Ecco, non sono un debole perché ha detto ho sentito dire che avrei pianto nel vedere il relitto del giglio. Non è vero che ho pianto. Chi mette in giro queste notizie mi vuol far passare per un debole, come è stato in questi due anni, ma io non sono fatto così. Sto cercando di dimostrare che sono un galantuomo, non uno smidollato. E poi ancora racconta: non sono scappato quella notte, è stato come un incidente stradale, mi capisce? Non è che ti metti in mezzo e stai sul marciapiede, magari telefoni ai soccorritori. Ecco, io coordinavo i lavori di recupero dal molo. Io comunque sono qui e ci sto mettendo la faccia. Insomma, Schettino che si difende, il Corriere lo dipinge così, il Quotidiano Nazionale lo intervista, Schettino oggi sulla Concordia, nessuna lacrima, non è da me, ma vedere il relitto è il vero custode della verità, è stato straziante, non ho pianto, ma le mie sensazioni sono state ben peggiori e le tengo per me. E ancora ci metto la faccia, son meravigliato che si vada alla ricerca per forza di comportamenti che non mi appartengono. Mi riferisco a chi si nasconde, si avvale della facoltà di non rispondere, persone che avrebbero molto da dire. Riguardo al processo dice questo, e anche La Stampa mette queste frasi con Grazia Longo inviata al giglio, a pagina 18, Schettino al giglio tra le polemiche, vergognarmi? Non sono mica Vallanzasca. La verità è che molti abitanti del Giglio, a cominciare dal sindaco Ortelli, dice Schettino è un caso umano. Quella notte ha avuto un attacco di panico e non ha saputo gestire la tragedia che aveva provocato. Basti dire che non mi fece neppure una telefonata per spiegarmi le dimensioni dell'incidente, in modo da consentire a me, che sono responsabile della protezione civile dell'isola, di organizzare l'accoglienza dei naufraghi. Molti abitanti del Giglio, dice il sindaco, mi hanno scritto per dirmi che il ritorno di Schettino è una vergogna. E sinceramente io, pur essendo garantista e ritenendo legittimo il suo diritto a risalire sulla Concordia, sto dalla parte di quei parenti. Così anche Michelina Suriano, avvocato di alcuni naufraghi, che dice Schettino sarebbe dovuto risalire a bordo quella drammatica notte, non oggi. O il parroco, dice, avrebbe dimostrato maggior rispetto per tutti se avesse deciso di non tornare qui. Insomma, come vedete, non è che tutti sono così concordi con Schettino nel dire meritava questa possibilità di tornare a bordo. Poi dal punto di vista tecnico-giuridico gli è stata concessa dal tribunale nell'ambito del processo e quindi giusto così. Come detto, noi parleremo della vicenda che farà molto molto arrabbiare. Ieri il Fatto Quotidiano l'ha riportata, oggi il giornale la mette in prima pagina con Stefano Zurlo, poi un'intera pagina, pagina 11, lo scandalo delle pensioni da 90 milioni nella regione autonoma del Trentino Alto Adige. 123 politici hanno maturato il diritto a un vitalizio faraonico che per molti arriva a superare €1 milione. €1 milione. È una vicenda che deriva dal fatto che un cambiamento di legge dal contributivo al retributivo è stata applicata, ma vale solo per i prossimi consiglieri e quindi per quelli attuali, visto che i diritti erano acquisiti, i diritti acquisiti non si toccano. Cari italiani che siete esodati, i diritti acquisiti loro non si toccano. E quindi per i consiglieri in questo momento in carica bisognava, in questo passaggio dai due sistemi pensionistici, liquidare i vitalizi attuali, perché i diritti acquisiti di chi era già in carica non si toccano. E così si sono presi, si prenderanno 90 milioni. Ci sono alcuni come la separatista sudtirolese Eva Klötz, che si prende €1.100.000. Luis Durwalder, ex presidente per anni della provincia autonoma di Bolzano, €919.000. Lorenzo Dell'Ai, già presidente a Trento, oggi deputato, €572.000. E così via. Ma le classifiche ci sono tutte. A proposito di costi, ha fatto molto scalpore e oggi è intervistata anche da Repubblica Esther Bonafede, assessore della regione Sicilia, assessore al lavoro, che ha detto: io guadagno 5.800 euro netti al mese, meno del commesso. Uno scandalo. È certo che questa frase di questi tempi è di un'infelicità tale che magari può essere anche giusto dire che un assessore, anzi sicuramente che un assessore, debba guadagnare più di un commesso per la responsabilità che ha, ma dirla così, di un'infelicità, non si rendono conto. Questo è, non si rendono conto. Infatti Antonio Fraschilla di Repubblica va a intervistarla. Sono stata lapidata, dice l'assessore, perché ho detto la verità. Ma davvero 5.800 euro netti al mese le sembrano pochi? Ma io non ho detto questo, ho fatto solo una constatazione. Dopo la spending review guadagno meno di un deputato regionale e quasi quanto un commesso. Ma lo sa cosa significa fare l'assessore al lavoro in Sicilia? E Repubblica, sì, ma non le sembra di essere stata quantomeno inopportuna? Inopportuni sono alcuni giornalisti che hanno rubato questa mia affermazione. La verità è un'altra: paghiamo l'impopolarità della politica e il clamore di un governo, quello Crocetta, che sta facendo la rivoluzione. Io assessore siciliana che prendo meno di un commesso, una battuta che le è scappata proprio alla buvette dell'ARS, l'Assemblea Regionale Siciliana, dove un segretario generale guadagna €500.000 l'anno, un assistente a fine carriera €5.000 netti al mese, e lei dice: ho visto la mia busta paga €5.800, meno di un deputato ma anche di un semplice commesso. Ah, grande scandalo. e quindi è finita su tutti i giornali, l'assessore regionale al lavoro. È una di quelle frasi che ci fa tenere ben strette le mani sul volante. Guardate, lo dico come battuta, ma sembra una barzelletta, ma vi giuro che è vera. La riporta il Corriere della Sera. Ieri Angela Merkel, incontrando Angelino Alfano, Angela Merkel ha ricevuto Angelino Alfano, ripeto, Angela Merkel ha ricevuto Angelino Alfano e ha detto, scrive il Corriere, posso capire cosa significhi tenere il volante con entrambe le mani. Mani sul volante! Angela Merkel, anzi Angela Merkel. Allora, alle 7:33 minuti siamo qui a raccontare, beh, la notizia politica del giorno certamente è la spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle. Alla fine la rete ha votato 30.000 voti a 19.000, boh, la ricordo più o meno così, e i quattro senatori sono stati cacciati: Orellana, Campanella, Bocchino e Battista, accusati, come scrive La Stampa a pagina 2 con Roberto Giovannini, di avere criticato il modo in cui il caro leader aveva liquidato Matteo Renzi durante le consultazioni. Ora vengono buttati fuori dal movimento. Ma che succede? Intanto tutti i giornali raccontano, beh, c'è questa frase di Grillo a pagina 3 del Fatto Quotidiano: è solo un conteggio matematico di quello che abbiamo sempre saputo, non c'è alcuna sorpresa, non potevamo permettere che nascesse un movimento dentro al movimento. Così pagina 3 del Fatto: trovavo inaccettabile un movimento nel movimento. Così Beppe Grillo avrebbe giustificato questa vicenda. Ma tutti i giornali raccontano di questa riunione che è andata anche in streaming, uno streaming che andava e veniva ogni tanto. E anche qui accuse, ma come mai ogni tanto non andava lo streaming? Qualche giornale scrive casualmente quando dovevano parlare i dissidenti poi espulsi non funzionava lo streaming. Sta di fatto che tutte le resoconti, tutte le cronache dei giornali parlano di questa riunione con parole grosse, lacrime, lo psicodramma 5 Stelle, fascisti e cannibali, minacce, lacrime. Così Alessandro Trocino lo racconta a pagina 3 del Corriere: siete peggio dei fascisti, una senatrice infuriata lascia l'assemblea un budello di sentimenti e risentimenti, rabbia, frustrazione. Un'altra è alla buvette, prova a parlare al cronista ma arranca, riesce solo a dire non so che fare. A un certo punto Serenella Fucsia litiga con Nicola Morra, che tra l'altro sarà il nostro ospite alle 8:45. Chi stai accusando? Chi? Voglio soggetto, predicato, verbo. Morra un tremito, vado su e ti porto le carte. Poi si riprende e racconta questa giornata campale e la racconta così. Sentite, Nicola Morra, due punti aperte virgolette. Siamo all'assedio di Stalingrado, anzi Leningrado. Questa è una guerra vera. Lo sa che ci furono atti di cannibalismo e ci fu una direttiva per punirli? E scrive il Corriere: per Morra i cannibali sono i dissidenti, gli espulsi, i reietti, gli untori che devono essere allontanati con un esorcismo purificatorio e puniti con la gogna pubblica. Per altri i cannibali sono loro, i pasdaran, i duri e puri del movimento, gli integerrimi difensori del verbo e dei due capi. Vabbè, la vicenda è un po' così. Ovviamente ci sono anche su il Secolo XIX, Movimento 5 Stelle nel caos, escono in 15, questa è la cifra che viene data dal Secolo. Anche a Repubblica in prima pagina con Tommaso Ciriaco, e poi continua a pagina 3 la scissione dei dissidenti, pronti gruppi autonomi, possiamo sostituire il nuovo centrodestra, alcuni dicono così. Piangono tutti nel giorno più amaro della giovane storia grillina, oppure urlano, si insultano mentre il Movimento 5 Stelle va in frantumi. Il capogruppo Sant'Angelo punta il dito contro l'eretico Lorenzo Battista e gli urla: esci da questa stanza! Tutto si compie in una sala riunione di Palazzo Madama mentre la rete ratifica l'espulsione dei quattro parlamentari messi all'indice dal fondatore. Venduti si sgolano i falchi, serpi in seno, neanche i fascisti si comportano così, ribatte una dissidente in lacrime. È ormai l'ora di una scissione covata per mesi, annunciata sulla stampa, negata con buona dose di sarcasmo dai guardiani dell'ortodossia pentastellata. Una ferita si è aperta ai tempi dell'elezione di Grasso, allarga le braccia Nicola Morra e mai è stata suturata. Ovviamente ci sono le interviste e ogni giornale intervista chi può e chi riesce. Alessandra Bencini di Su Repubblica dice: sembrava l'inquisizione, Beppe mente, senza contare l'elemento del voyeurismo, quello streaming che andava e veniva a seconda di chi parlava. Ora dice: predichiamo trasparenza ma abbiamo punti oscuri. E Alessandra Bencini dice: mi dimetto, così nessuno può dire nulla, l'abbiamo sempre promesso. Anche sul Messaggero un altro senatore, Maurizio Romani, dice: me ne vado, vedo guerre ovunque, scelte e metodi non democratici, me ne vado a casa e se il Senato non accoglie le dimissioni le ripresento. Non è che vada Renzi? No grazie, sto bene dove sto, ho una ferita profonda da curare. Mentre Giachetti, che è stato indicato nel famoso biglietto che Renzi ha mandato a Di Maio come colui che tiene le fila del dialogo con i grillini, Giachetti viene intervistato dalla Stampa da Francesca Schianchi a pagina 3 e dice: è difficile dialogare con loro, c'è troppo bullismo. Io certo che parlo con loro, parlo con un sacco di deputati del Movimento 5 Stelle, ma nessuno mi ha dato questa funzione, semplicemente il Premier non può stare tutti i giorni a dialogare con le forze politiche. Ma mi colpisce una cosa, quale Giachetti? Per esempio Di Maio, che stimo e apprezzo, per poter mettere tutto in rete ha dovuto fotografare i suoi bigliettini prima di farli avere a Renzi. Mi pare una cosa triste, segno di grande diffidenza. Se allora tira fuori tutti gli SMS che gli ho mandato. In uno, dopo che lo avevano attaccato, gli scrivevo anche: ti voglio bene. Ecco, così Giachetti parla di Maio. In tutto questo che faranno quelli che sono stati espulsi? Beh, si vocifera sempre di più e la Stampa con Andrea Malaguti lo scrive a pagina 3 in modo abbastanza chiaro: Civati apre la porta ai fuoriusciti, c'è spazio per fare un gruppo. L'idea è questo, con uno dei transfughi che ammesse, se Pippo Civati avesse più coraggio saremmo già con lui. Questa è la linea per esempio di Paola Taverna, una custode dell'ortodossia grillina, che intervistata sempre dalla Stampa a pagina 2 dice: non è una sconfitta, era giusta prendere questa strada. E come immagina che proseguirà la loro avventura politica? Ma come vuole che vada, risponde la senatrice Taverna. Respingeranno le loro dimissioni, li annetteranno a qualche gruppo che ci prova da tempo, li terranno per le palle e li faranno roteare. Ma non finisce così, alla fine vinciamo noi. Oh, questo è il clima che si respira all'interno del Movimento 5 Stelle. In tutto questo Renzi ieri era a Torino, sì, a Treviso, prima uscita, rammendiamo la scuola, cioè risistemiamo la scuola, c'è stata qualche contestazione da parte dei forconi, rispetteremo i vincoli, modificheremo il patto di stabilità, insomma rilanciato a questa su questo tema della scuola, ha anche dato la mail matteo@governo.it. Per la verità l'ha data ai bambini delle elementari che lo ascoltavano, però insomma è pubblica. Scrivetemi per dire cosa fare. matteo@governo.it. Renzi che ha promesso, come titolo al Sole 24 Ore, pagina 5, anche il taglio dell'IRAP fino al 30%. Il responsabile economico del PD, Taddei, per la verità qui ai microfoni, proprio a questi microfoni, due giorni fa aveva detto: taglieremo l'IRAP del 10%, l'IRAP dei privati di 23 miliardi, quindi recupereremo 2,3 miliardi lì. Matteo Renzi si spinge oltre il 30%, dice: riparto dalla scuola, il 17 marzo, dunque tra una ventina di giorni, sarò ad incontrare Angela Merkel e le porterò il Jobs Act, dunque la riforma sul lavoro. E insomma, diciamo che queste sono le notizie. Prima grana, però, almeno la mette così il giornale, la prima grana per il governo Renzi è questa: il ministro Maria Carmela Lanzetta, ministro degli affari regionali, ex sindaco di Monasterace, è indagata per abuso d'ufficio. La notizia, per la verità, è una vecchia notizia che viene riproposta, pagina 2 del giornale, da Maria Teresa Conti. indagata il ministro Lanzetta. La notizia in sé non è nuova, i giornali ne avevano già parlato. Il reato abuso d'ufficio è di quelli in cui facilmente un amministratore pubblico può incappare. La novità riguarda Maria Carmela Lanzetta, che ora è ministro e di conseguenza costituisce un problema per il neonato governo Renzi. In realtà il ministro Lanzetta, contattato dal giornale, dice: non ho ricevuto alcun avviso di garanzia e domani, per chi legge la Gazzetta del Sud, scriverà che il caso è stato archiviato. Dunque il ministro Lanzetta dice: una storia vecchia, stanno archiviando. Il giornale invece oggi a pagina 2 dice: è indagata. C'è un altro problemuccio per Matteo Renzi, secondo Repubblica e Il Fatto Quotidiano, e riguarda il Ministero dell'Economia, dunque il Ministero chiave, ma ve lo svelo dopo. Prima voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, eccoci. Buongiorno Alessandro. Sei sempre in tempo, perché le nomine dei sottosegretari e viceministri slittano a domani. E quindi... Allora facciamo un po' la svelta della telefonata, che magari mi telefono. Anzi, mi poco fa, alle 6.45, Matteo Renzi ha fatto il primo tweet: sono a Palazzo Chigi a studiare i dossier più importanti. Quindi potrebbe essere... A proposito di Twitter, ti propongo, tu twitti sempre rassegnati, sì, hai questo hashtag, sì, come sì, si dice, sì, come che dite non è, voi. Che vogliamo svelare una volta per tutte, non è uno stato d'animo, sono coloro che seguono la rassegna. Rassegnati per quello. Quindi mi ringrazio della domanda in qualche modo. Ti proponevo di cambiarlo solo per oggi in resilienti. Non posso. Coloro che seguono la resilienza stampa suona male. Lo so, però Paolo Bricco spiega bene perché l'impresa italiana, come emerge dai dati Istat raccontati appunto da Paolo Bricco in Imprese e Territori, l'impresa italiana si è mostrata resiliente, cioè è riuscita a trovare in qualche modo delle risorse che in alcuni casi hanno non solo difeso la base occupazionale, ma in qualche caso hanno addirittura aumentato. E insomma, risparmia di qua, risparmia di là, qualcuno è riuscito a resistere, anzi a, non so come sia il verbo di resiliente, devo ammetterlo. A resiliare, forse. Di altri. Chiedo scusa ai grammatici, naturalmente. Senti, poi se volessi comprare casa, ti segnalo Casa 24 oggi con il Sole 24 Ottimo. Ore, c'è anche una guida al compromesso. Stanno calando i prezzi delle case di lusso, però attenzione perché poi c'è l'IMU e tu non sei preparato sull'IMU, lì no, è rimasta l'IMU. Ecco. Però c'è una guida al compromesso, cioè al primo atto formale che si fa nel caso di acquisto di casa, e quindi con i tuoi 2 euro puoi prenotare, 2 urini anzi puoi prenotare. E poi bellissimo, c'è tutta la spiegazione di quello che sta nel mille proroghe, che è sempre un provvedimento che a me piace molto, è arrivato in fondo e quindi nelle pagine norme e tributi. Adesso vi diamo contezza dei contenuti che sono diversi, ad esempio l'obbligo di bancomat per i professionisti, come funzionerà, e anche un po' l'annosa vicenda dei commercialisti e revisori. Questa è una querelle tutta nostra che i protagonisti conoscono bene, non voglio rubare altro tempo. Ottimo. Attenzione che il 14 marzo i ministri della UE devono decidere sulle nuove regole antifumo, per chi di noi purtroppo si ostina a fumare, saranno tempi più duri con in un paio d'anni pacchetti con scritte ancora più grosse, insomma, e altre strette anche sulle sigarette. Ma ti sento molto partecipe su questo. Comunque, caro sono Mauro, molto vicino alla questione. Se vuoi, matteo@governo.it è lì. Ti scrivo. Non so se hai dei suggerimenti, li ha chiesti ai bambini delle elementari. No, l'hashtag, cosa vuoi fare di hashtag? No, non lo so, resiliente. No. Resiliente. Disponibile. Sono resiliente, scrive. Disponibile a un viceministero o un sottosegretariato, va bene. Anche sottosegretariato va bene. Dicevo, un problemuccio per Matteo Renzi, e non da poco. Repubblica e Il Fatto Quotidiano lo scrivono in maniera molto esplicita. Repubblica con Roberto Mania in prima pagina. Attenzione, perché si parlava tanto della lotta alla burocrazia, degli alti papaveri, dei mandarini, di coloro che controllano i ministeri. Che succede al Ministero dell'Economia, dove si è insediato Padoan chiama la squadra di Letta. Questo è il titolo di Repubblica. Enrico Letta, con la sponda di D'Alema, scrive Repubblica, conquista il Ministero dell'Economia, il più importante, lì dove si decide per quanto sotto sorveglianza dell'Europa, perché il ministro Padoan, già direttore del think tank Dalemiano Italiani Europei, ha scelto la sua squadra. Capo di gabinetto Roberto Garofoli, già segretario generale di Palazzo Chigi nel governo Letta. Vice capo di gabinetto Luigi Ferrara, che collabora con Letta dai primi anni del 2000. Capo della segreteria tecnica Fabrizio Pagani, consigliere economico di Letta. È un'operazione, per quanto è trapelato, scrive Repubblica, che non dispiace al Quirinale, dal momento che offre la garanzia di continuità e stabilità. C'è da una parte, scrive Repubblica, una sorta di vendetta di Enrico Letta sfrattato da Palazzo Chigi col voto della direzione del PD, dall'altra la rivincita dei consiglieri di Stato, perché Garofoli, 47 anni, appartiene alla categoria dei potenti giudici amministrativi che da sempre, ma soprattutto nella Seconda Repubblica, con il declinare della qualità del personale politico, guidano dietro le quinte, forti delle loro competenze giuridiche, l'azione dei singoli ministri. È uno smacco per Matteo Renzi, che solo 3 giorni fa nel suo discorso programmatico ha dichiarato pubblicamente guerra agli alti burocrati ministeriali, ai consiglieri di Stato, fino a immaginare un decreto per arginare il loro ingresso nelle stanze del potere. Questo è l'articolo più importante di Politica del Giorno, cari ascoltatori, così come il Fatto Quotidiano. Marco Palombi racconta la stessa vicenda, scoppia la guerra tra Renzi e il Tesoro, che è una ridotta dei lettiani. Il premier sta creando a Palazzo Chigi un suo staff personale che gestisca anche la politica economica, mentre gli uomini di Letta si trasferiscono da Padoan. E allora c'è il rischio che si crei quella diarchia che Renzi ha detto non ci deve assolutamente essere per guidare anche dal punto di vista economico il paese. D'altra parte il centrodestra, la frase di Berlusconi che viene riportata da tutti i giornali, dal Giornale, da Repubblica, è questa: o ha fatto fuori più comunisti Renzi in 2 mesi che io in 20 anni. Così Silvio Berlusconi sta dipingendo Matteo Renzi, del quale dice: al gradimento della gente, molti dicono sia il mio successore, vedremo, di lui mi fido, peccato non sia uno dei nostri, perché ha tutto di noi, è un democratico, è un liberale, è un boy scout. Così Silvio Berlusconi di Matteo Renzi. La cronaca, la notizia più importante certamente, è saltato il decreto Salva Roma, il decreto che deve essere convertito entro fine settimana. Il Messaggero apre su questo: salta il decreto Salva Roma per il bilancio di Roma, Marino minaccia il sindaco, mi dimetto, fa 2 interviste, una sulla Stampa, c'è chi invoca Nerone, ma io non farò il liquidatore. Bene, sì, c'è stato un onorevole Marcolin della Lega che ha detto: Roma merita il commissario, e secondo me il profilo ideale per ricoprire questo ruolo è quello di Nerone, testuale, l'onorevole Marcolin della Lega. Ebbene, Marino, intervistato da Paolo Baroni sulla Stampa, dice: c'è chi invoca Nerone, ma io non farò il liquidatore, leghisti e grillini giocano a risico. E in questa intervista alla Stampa, così come intervistato anche da Repubblica, dice: io non ho mai chiesto un soldo, si continua sulla strada del rigore, è una scelta che condivido, ma non posso pagare il buco amministrativo delle altre precedenti amministrazioni. Tra l'altro, da Roma c'è una notizia che viene messa su tutti i giornali con grande risalto: è stato arrestato per tangenti l'ex capo dei vigili Angelo Giuliani. La procura gli contesta di avere preso una tangente da 30.000 euro in cambio di un appalto alla società Sicurezza Ambiente, che cosa faceva? Ripristinava le strade dopo ogni incidente. Questa è l'accusa, ovviamente tutte prove da dimostrare, ma Mazzette, arrestato a Roma, l'ex capo dei vigili, proprio in questo momento qui si parla anche di decreto Salva Roma, non è certo una notizia secondaria. La trovate su ovunque, sui giornali, anche sul Messaggero, appunto, con grande risalto a pagina 15. Siamo al momento conclusivo e vince oggi la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali. Arriva il carnevale, te pareva, Nino Materi sul Giornale, una pagina intera sulle maschere che vanno quest'anno. Ma non ci sono più i supereroi di una volta, non c'è più Zorro, io mi vestivo da Zorro, 4 fratelli, tutti vestiti 4 da Zorro quando ero piccolo. Schettino, affonda Zorro, l'Italia si maschera così, Schettino. Antonio Razzi, la maschera di Antonio Razzi, la maschera di Schettino. Io se trovo una a Milano con la maschera di Schettino faccio la prima rissa in vita mia, ve lo giuro, lo piglio a schiaffoni se lo trovo vestito da Schettino e il giornale ci fa una pagina. La carta costa, ditelo, urlatelo, la carta costa, lo capiranno prima o poi, non lo so.